Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera di nuovo, eccoci qua su Nervature, lunedì 26 gennaio, buonasera a tutte e tutti qui all'ascolto in diretta e non. Eccomi qua, Addu, qui con voi come sempre ogni lunedì alle 19 per un'oretta e mezzo, dipende un po' dalle volte, a farvi compagnia, in ogni caso sempre a parlare di piante, biologia, giardinaggio, botanica, progettazione, dipende un po' dalle volte, da come mi gira. Che dire, oggi giornata molto molto molto importante, sono anche emozionata e lo sto diventando sempre di più in questi giorni perché questa è la 99esima puntata, questa che state sentendo, e il che fa preannunciare che la prossima sarà la 100esima. Questa è una cosa che può darsi che già sappiate, o perché avete ascoltato Nervature settimana scorsa, ovviamente già l'ho detto, o perché avete ascoltato la radio in questa settimana e avete sentito lo spottino, ma ecco, può darsi che già sappiate cosa succederà esattamente fra una settimana a quest'ora, quindi alle 19 circa. Provo a farvi risentire lo spottino e poi, vabbè, si rispiega anche un po' a parole, dai, più divertente. Sei curioso di conoscere il wombat più da vicino? Vorresti per esempio sapere di che piante si ciba questo paffuto marsupiale? Vieni a chiederlo a Nervature, la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante e che il 2 febbraio al Centro Sociale Next Emerson festeggerà la sua 100esima puntata. Dalle 19, diretta a microfoni aperti, a seguire Cena Popolare, Banchino della Radio e DJ Set Arrangia Meccanica. Passa a fare un saluto e magari a raccontarmi la tua pianta storica. Amore, il tempo passato con te, l'ho amato tutto. L'amour, fai passé le ton, l'amour, fai passé l'amour, tempo passato con te. E quindi ecco, come avete sentito, adesso non avete più scuse, lo sapete perfettamente. Lunedì prossimo alle 19 la mia diretta sarà a microfoni aperti e per partecipare potete venire appunto al centro sociale Next Emerson a Firenze, zona Firenze Castello, via di Bellagio, non mi ricordo il numero in questo momento, vabbè, e così che potete o ascoltare o guardare o anche se volete intervenire appunto ai microfoni che saranno aperti. Così potete fare un saluto, potete dire la vostra, potete star lì a dire due cavolate, potete raccontarmi una vostra pianta storie se volete, che come ormai sapete è la storia della vostra vita, una, anzi storia della vostra vita personale che parla di una pianta, dove una pianta è stata importante, ecco, in questo evento, in questo fatto, o più piante, anche perché no. E poi, appunto, come avete sentito, ci sarà una cena popolare, probabilmente vegetariana o vegana, non lo so ancora, questo non abbiamo ancora fatto la lista della spesa, scusate. In ogni caso, questo eventino lo trovate anche dalla punta E lapunta.org, cioè www.lapunta.org, è un sito di eventi a Firenze e ritrovate tutte le informazioni proprio aggiornate all'ultimo minuto, quindi andate pure a aggiornarvi lì, appunto. E dopo di questo, come avete sentito anche dalla musica utilizzata nello spottino, ci sarà 17 Arrangia Meccanica. Non perdetevelo, gli Arrangia Meccanica sono già state ospiti qui da me a Nervature almeno due volte, direi. Sì, direi. Quindi così, sono, ecco, saranno con noi a farci compagnia la sera. Detto questo, non vi tedio più di tanto, magari metto un attimo di musica e poi iniziamo con gli argomenti di quest'oggi. This ain't a phase, this a relationship. Yeah. I fell in love with the kick and the crack of the snare, with the dust on the record and the truth in the air. When nobody listened, the mic still cared hip-hop. Held me down when the world wasn't fair. I learned how to breathe through a 16 bar. How to bleed on a page, how to turn scars on. Yeah. They loved me before I was worth a cent. Before streams, before likes, before rent. Survive. I was broke but rich in a notebook page, writing freedom out of minimum wage. No cap, you know, hard at running back, yeah. I talk fast cause my heart beat double. When the drums come in, I forget my trouble. I don't chase the game, I'm married to sound. If hip-hop a church, the boot my ground. Yeah, they flirt with the culture, I sleep with the crowd. Every verse a promise I never break. I don't rap to be loved, I rap cause I am. For my soul, on my soul. Hip-hop loved me when I had no name. Hip-hop taught me how to channel the pain. I don't cheat on the craft, I stay faithful, man. When the beat drop, I feel at home. This love run deep in the microphone. I don't fall in and out of love with hip hop. I grow with it. Flex. This is fact. They sell dreams on the screen while the rent still due. Timeline full of gold, but the fridge still blue. Everybody screaming win, but the map don't move. System rigged, so blaming you. They won't try with no thought, pain with no cause. Gun bars cute till it knock on your door. They profit from trauma, package it clean. And that's why the youth so angry and mean. Mind on turbo, I talk too fast. Cause lies move slow, but they never last. Politicians talking peace and wars on field. While the block still hot and the school still split. Facts. Watch this. Move fast, think fast, no pause. World sick, still clapping applause. They don't hear us till the glass get cracked. Still screaming truth through a trap, fast track. Move fast, hardcore, eyes wide. Social fees line to keep you blind. They don't fix nothing, they monetize that. So I spit this rage on a trap, fast. I seen influencers sell poverty. She never missed a meal but talk about the streets. I seen companies tweet, we stand for the youth. Same week, lay off half the crew. Speed flow, cause my thoughts overcrowded. Too much noise, nobody grounded. Everybody woke on the app one day. Sleepwalk back to the same damn cage. They say work hard, you gon' make it out. But don't talk about doors, that's locked by default. If you born in the bottom, the climb costs double. And a fall come quick when you slip or stumble. Real talk, no cap, hold up. Nah, running. I talk fast, cause the clock stay hunting. Build stress, news stay dumping. Every headline, another distraction. Why the same hands pull the same damn strings? They teach obedience, not how to think. Teach survival, not how to link. Divide the poor, let them fight in lines. While the top be calm off exploited time. I ain't anti-success, I'm anti-lie. Anti-system that teach you comply. Trap be banging, but the message raw. I don't numb the pain, I address the cause. Dang. Stay sharp. Move fast, think fast, no pause. World sick, still clapping applause. They don't hear us till the glass get cracked. Still screaming truth through a trap, fast track. Move fast, hardcore. E quindi queste prime melodie, Lauryn Hill, Blues Project. Molto molto avvolgente, ce le lasciamo un attimo in sottofondo. Prima di ricordarci i contatti della radio, siete su Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Il sito nostro è radiowombat.net, da cui trovate lo streaming, da cui trovate i podcast e tutte le trasmissioni vecchie e nuove, da cui trovate il link del pad. Non ve lo sto tanto a ridire oggi perché non sono in diretta, mi sentite registrata, per cui potete scrivere, ma vi risponderò alla festa, settimana prossima direttamente. Che dire, allora, oggi di cosa parliamo? Oggi, tutto è partito da un articolo che ho letto tramite il blog Picaia, che già ormai l'ho citato svariate volte, è un ottimo blog di informazione, ve lo consiglio. E l'articolo in questione è del 20 gennaio 2026, molto recente, giusto 6 giorni fa, e dice: digitalizzati 357.000 campioni dell'erbario dell'Università di Pisa. Mi è sembrata una notizia molto interessante, quindi sono andata un po' a approfondire e vi riporto, un po' in generale questo argomento. Allora, sì, a quanto pare sono stati digitalizzati appunto centinaia di migliaia di campioni, 357.000, quindi sono veramente tanti, e l'erbario di Pisa non è assolutamente l'unico in Italia, ma è un erbario molto molto importante a livello proprio internazionale, ha un sacco di campioni unici e quindi ecco appunto è ovviamente un passo molto importante questo della digitalizzazione. Volevo a questo punto quindi un attimo ragionare con voi sull'importanza e sull'utilità che in generale ha un erbario. Intanto, così, partiamo dalle basi. L'erbario è come se fosse un catalogo, una biblioteca, se vogliamo, di campioni vegetali secchi, quindi piante morte, si tratta di piante morte, e che vengono appunto conservate con dei metodi piuttosto specifici, e dopo lo vedremo meglio. Comunque il punto è che vengono conservate una pagina una specie, un'altra pagina un'altra specie, con sotto una serie di informazioni scritte, quali per esempio la data, il luogo di raccolta, che sono molto molto molto importanti, e poi vediamo perché. Anche il raccoglitore o raccoglitrice, e poi eventualmente il nome della specie. Dico eventualmente solo per il fatto che quando uno raccoglie una specie magari non lo scrive subito il nome, lo porta a casa, prima lo secca il campione e dopo lo classifica. Quindi comunque nell'erbario finito ovviamente sì, certo, c'è il nome della specie, genere, specie, varietà, la famiglia, insomma. Diciamo, ci possono essere vari tipi di informazioni. Poi, per esempio, cos'altro ci può essere? Un metro, quindi una stina, come si dice, insomma, che permetta di misurare la grandezza del campione. E poi, vabbè, altre informazioni varie. L'importanza degli erbali è in realtà molto più ampia di quello che si possa pensare spesso, perché sono veramente una biblioteca storica, archeologica, se vogliamo, anche della flora, in questo caso, di una certa epoca storica. Questa epoca storica può essere mille anni fa, ma ora mille è tanto, comunque può essere magari 500 anni fa, può essere anche 50, banalmente. Perché è comunque importante? Perché ormai purtroppo è diventato molto molto necessario studiare il livello di, diciamo, sì, chiamiamolo livello, non so se è giusto, il livello di biodiversità di una certa area. Perché sappiamo che le estinzioni purtroppo sono quasi all'ordine del giorno, di fauna e di flora entrambi. Quindi il fatto di avere la possibilità di ristudiare qual era la flora di un certo posto, e per questo è importante scrivere appunto il luogo di raccolta, è veramente importante per fare degli studi, dei paragoni, delle ricerche in ambito appunto proprio di biodiversità, che sappiamo essere importantissima e tanto importante quanto a rischio. Sentiamoci un attimino, qualche minuto in più di musica e rientriamo poi in voce. Black, black roses. Hey, Ra-pa-pam, ra-pa-pam, pam-pam. Well, it's a blessing to my eyesight. Seeing you for sure in a different light. And I don't wanna fight. But for you, well, I'll be on the front line. Oh, music to my ears like. When you talk, I wanna walk the whole mile. Food for my soul, right? Searching for your signal with my satellite. Rap-a-pum, rap-a-pum-pum. My heart a beat for this, your girl is beating like a drum. No fun, what a guan-guan. I want she body, take a body, but she got a man. No, rap-a-pum, rap-a-pum-pum. My heart a beat for this, your girl is beating like a drum. No fun, what a guan-guan. I want she body, take a body, but she got a man. No. Black, black, brown, whoa. So won't you tell me what you need? The proof to prove to you that my love is for real, yeah. I think that we can make a deal. Cause we no lose, I get to show you how I feel, ooh. Cause I like your sex appeal. Don't tease me with your body, cause the pressure will reveal, yeah. This thing it got me vexed. Cause I want your digits, yes, I want you texting me. Rap-a-pum, rap-a-pum-pum. My heart a beat for this, your girl is beating like a drum. No fun, what a guan-guan. I want she body, take a body, but she got a man. No, rap-a-pum, rap-a-pum-pum. My heart a beat for this, your girl is beating like a drum. No fun, what a guan-guan. I want she body, take a body, but she got a man. No. Black, black, brown, whoa. My eyesight, seeing you for for sure in a different light. Don't wanna fight. Be on the front line, oh. I learned to hold myself when nobody's there. Learned to love my reflection without needing praise. I don't beg my heart to feel enough. I finally learned how to be my own love. I used to measure my worth in your eyes. E quindi se... Volendo entrare un po' più nel vivo dell'importanza che hanno gli erbari, vi leggo delle parti di un altro articolo qualche mese fa, dei primi di settembre. Mi sembra molto interessante, quindi ve lo rileggo, insomma non ve lo sto tanto a parafrasare. Quindi ogni esemplare d'erbario è un frammento di biodiversità fissato nel tempo. Non solo l'identità di una pianta, ma anche le tracce delle sue relazioni ecologiche. Nati nel 500 come strumenti di classificazione, gli erbari si rivelano oggi archivi preziosi che costituiscono una straordinaria varietà di reperti botanici. E si tratta quindi di foglie, fiori, frutti, semi, radici, steli, intere piante essiccate anche. E questo ci potevamo arrivare, ma la cosa interessante è che su questi campioni, apparentemente silenziosi, rimangono in realtà impressi segni invisibili, però allo stesso tempo fondamentali per lo studio. E sono segni lasciati, per esempio, dai danni degli insetti, oppure i granuli di polline, o residui microbici, o appunto sì, magari lasciate da altre specie appunto che andavano magari a visitare proprio quella pianta lì. Oltretutto è stato pubblicato su Nature Reviews Biodiversity, quindi rivista di pubblicazioni scientifiche, è stato pubblicato un articolo da Barnabas Daru della Stanford University e da Daniel Zigila, non so come si pronunciano, Gombe State University, nei quali mostrano come gli erbari possono diventare finestre sul passato proprio. Che quindi possono essere utili per ricostruire le storie delle interazioni fra piante e altri organismi. Come si diceva appunto, se c'è il residuo di un insetto o un foro di un insetto, si riesce a capire appunto le relazioni fra quella pianta e quell'animale. E possono anche aiutarci a capire in che modo, oltretutto, il cambiamento climatico stia trasformando questi delicati equilibri che oggi tengono insieme gli ecosistemi, ecco un po' quello che dicevamo anche prima. In questo articolo, tra l'altro, gli autori mostrano come gli erbari possono essere utilizzati per ricostruire la storia delle interazioni appunto fra piante e organismi, come dicevamo, e è abbastanza importante perché non si tratta solo di studiare le forme o la distribuzione geografica delle specie, ma anche di osservare i segni lasciati da processi ecologici, per esempio. E allora, andando più nello specifico, parlano di fori, rosure sulle foglie, che appunto magari fatte da animali specifici o erbivori. Poi parlano di nuovo del polline sui petali, che quindi testimoniano appunto un'interazione con impollinatori specifici. Addirittura si riesce a ritrovare tracce di funghi o batteri che rimangono conservate su quei campioni vegetali. E chiaramente in tutto ciò si può anche studiare la presenza semmai di specie invasive. E ecco, per esempio, anche il nettare, oltre al polline, viene spesso e volentieri ben conservato, e quindi si tratta, nel caso di prelevarlo, reidratarlo, perché chiaramente il campione ormai sarà secco, e poi questo permette di analizzarlo e di nuovo, ecco, scoprire relazioni specifiche con impollinatori. Line felt way too close, like he was inside my head. I wish the moment would pass me by, but the chorus stayed too strong. He kept pulling truth from my chest and laying it inside the song. He touched my scars with his fingers, spoke my truth in a quiet tone. Begging me gently with his, begging me gently with his song. Every secret I try to hide. Sometimes healing hurt like that. He touched my scars with his fingers, spoke my truth in a quiet tone, breaking me gently with his song. Breaking me gently with his song. He told my story better than I could. Breaking me gently with his song. Yeah. Some songs don't entertain you. Recognize you, and that's when it hurt the most, in the best way. Ecco, per quanto riguarda invece altre informazioni che si riescono a trovare appunto tramite questi campioni vegetali, si parlava appunto dello studio dei cambiamenti climatici, e appunto è così perché tramite anche tecnologie avanzate molto recenti si riesce a quantificare i danni causati per esempio dagli erbivori, ma anche di misurare tratti funzionali delle piante, e, per esempio dimensioni, forma delle foglie, spessore o presenza di peli, caratteristiche di fiori e frutti, che riflettono, potrebbero riflettere, adattamenti ecologici o risposte ai cambiamenti ambientali. Tutti questi dati hanno un valore particolare in un contesto di cambiamento climatico, ovviamente. Quindi, confrontando il presente con i dati storici, è possibile capire come le reti ecologiche si stiano trasformando. Per esempio, può capitare che le fioriture non sempre coincidano con i cicli vitali degli insetti, o come le specie invasive riescano ad adattarsi più rapidamente delle native. Vengono anche riportate le parole di uno degli autori, dice: la principale difficoltà è che gli erbari non erano stati creati con queste nuove finalità ecologiche. I dati che contengono sono pieni di rumori, come bias di raccolta o degrado dei campioni. È un po' come cercare un ago in un pagliaio, ma quando si trova l'ago la soddisfazione è enorme. I was broke but rich in a notebook page, writing freedom out of minimum wage. No cap. You know, hold up, run it back. I talk fast cause my heart beat double. When the drums come in, I forget my trouble. I don't chase the game, I'm married to sound. If hip-hop a church, the booth my ground. They flirt with the culture, I sleep with the craft. I stay when it hurt, when the numbers laughed. Every verse a promise I never break. I don't rap to be loved, I rap cause I am. Forever, on my soul. Hip-hop loved me when I had no name. Hip-hop taught me how to channel the pain. I don't cheat on the craft, I stay faithful, man. It's a bond, not a trend, not a marketing plan. Hip-hop raised me, saved me, gave me a voice. Every rhyme I spit is a choice. E quindi, ecco, a coronazione di tutto ciò, possiamo immaginarci quanto la digitalizzazione di questi biblioteche, appunto, vere e proprie vegetali, possano essere utili ai fini di ricerca. Il punto è che appunto tramite la digitalizzazione poi tutti questi campioni sono molto semplicemente consultabili, ecco, non mi veniva, da chiunque nel mondo, quindi non c'è bisogno di prendere un aereo e venire a Pisa, a Firenze o ovunque sia, si può già avere un primo studio tramite appunto dei portali internet. questo è veramente molto molto utile e oltretutto, lo sentiremo meglio fra poco, oltretutto si sta riuscendo, perlomeno in Italia, a un po' mettere insieme le forze, quindi ci sono vari enti che in questo momento riescono a collaborare un po' tutte con lo stesso obiettivo, e anche perché magari alcuni erbali sono preservati all'interno di orti botanici, ma altri invece sono in musei regionali o in musei civici o all'interno dei laboratori dell'università, quindi ogni situazione ha anche una legislazione, no? Diversa, per cui ecco, interagire e condividere i dati poi non è sempre scontato. Invece ora si sta riuscendo un po' a uniformare, diciamo, il tutto. Vi manderei ancora un pezzo, direi, e rimaniamo, prima non ve l'avevo annunciata, avete sentito quale vi ho messo, scusate, anzi, Scorpio's Letter di Taste of Pluto, e andrei a sentire un'altra, sempre loro, sempre Taste of Pluto, questa è Rebellion. Wrong, still I do what is right. There's a lot of hungry wolf in disguise. Everybody know the pen is sharper than the knife. Words are weapons, so man have to think twice. Mind over matter, fi manifest the sight. Cause you can't reap the fruit before it ripe. No more separations, it's time for unite. That's why you have to stand up and rise. Fist in the air because you know you love your life. Through all the pain and strife, only make you feel alive. Sweet sense to make you feel alright. Yes, I spreading good vibes every day out through the night. Every day out through the night. Ain't no fuss, no fight. My people come unite. Whoa, I. Governmental corruption, destruction of the people. Brimstone and fire falling, that type of evil. Misguided by the lines and lies of a steeple. Simple, replace the chains with social equals. People, open your eyes, you're blinded by the ears. Daily repetition of a prayer for better days. Exposure to them elements can put you in the ears. When you see the white elephant, but still they turn away. Poor people, children, targets of the system. Miseducation are the weapon used against them. Empty in your pockets for a life you feel you're missing. Chasing after rockets, that's a science with no season. Fist in the air because you know you love your life. Through all the pain and strife, only make you feel alive. Sweet sense to make you feel alright. Yes, I spreading good vibes every day out through the night. Every day out through the night. Ain't no fuss, no fight. My people come unite. Whoa, I. Trouble and temptation sneaking up from the side. Many dumping spirits lurking in the night. In this crazy time, say we have to be wise. Fear, sweat, a running off, tears in the eyes. No gossip, no rumor can take away your pride. Running life's marathon long like a Nile. Just make sure that your well not run dry. Aim for the sky, you can reach higher heights. Oh, yeah, yeah. Oh, na, na, na, na. Oh, yeah. Look. Fist up in the air because you know I love's alike. And last life I was probably wrong to take gambles a roll of dice. See, most people are cobra like. Some niggas just hope to bite. I just sip my rum over ice. I think freedom is overpriced. Yeah, it's like that. You either lay down or you fight back. I shoot for the stars, walk across the moon like a Mike Jack. Your spirit too large, don't get your mentality hijacked. While making these songs, I got no time for the sidetrack, nah. Fist in the air because you know you love your life. Through all the pain and strife, only make you feel alive. Sweet sense to make you feel alright. Yes, I spreading good vibes every day out through the night. Every day out through the night. Ain't no fuss, no fight. My people come unite. Whoa, I. I have a dream that one day quindi oltre a, come vi ho detto in apertura, l'erbario di Pisa che è stato digitalizzato, anche questo ancora non è terminato ma è in corso d'opera, diciamo, anche quello di Lucca e anche quello di Firenze. Quello di Firenze non è un erbario qualunque, in realtà è l'erbario centrale italiano, quindi è appunto... Vabbè, si capisce dal titolo. È veramente una collezione importantissima, si trova vicinissimo all'Orto Botanico, quindi vabbè, zona San Marco, e anche quello è stato tutto digitalizzato. Ancora non è disponibile, mi sembra di capire, diciamo, forse se uno va lì è consultabile, ma ancora non è facilmente fruibile, però c'è una versione, diciamo... vabbè, ora ne parliamo dopo, non volevo sviare in questo momento dalla scaletta, diciamo, perché ecco, vi vorrei far sentire un podcast, vabbè, lo pubblicano sotto forma di video, ma insomma il video non è che sia poi tanto utile, un podcast quindi pubblicato da National Biodiversity Future Center, che è uno degli enti proprio portanti di queste azioni appunto di digitalizzazione degli erbari, che infatti si è occupato sia di quello di Pisa che di Lucca che di Firenze, insomma di tutti, ecco, c'ha per fortuna le mani in pasta ovunque al riguardo, e quindi ha intervistato in questo caso Elena Canadelli, che è la curatrice di questi progetti, e vi volevo far sentire appunto questo audio che spiega abbastanza nel dettaglio un bel po' di cosette. Vediamo. Ciao a tutti e bentornati. Eccolo alla qua. Biodiversità al centro. L'11 giugno del 2024 il National Biodiversity Future Center ha presentato il piano di digitalizzazione dell'erbario centrale italiano di Firenze e di altre collezioni naturalistiche italiane. 4 milioni e 200 mila reperti saranno scansionati e messi a disposizione di ricercatori e cittadini di tutto il mondo. È un progetto dello SPOC 7, a cui abbiamo già accennato nel primo video di questa serie. Ecco, sì, questo poteva accadere, effettivamente i problemi di linea sono all'ordine del giorno. Vediamo se riesco a recuperarvelo, scusate. Ai, ai. Remember looking at the hour, picking up the phone, dialing your number, 'cause you weren't home. Now it's so different, now I'm so grown. Eccolo, ce l'abbiamo. Scusate questo piccolo problemino tecnico. Eccoci, ci dovremmo essere a questo punto. Risentirete i primi secondi di Ciao a inizio. Tutti e bentornati alla Biodiversità al Centro. L'11 giugno del 2024 il National Biodiversity Future Center ha presentato il piano di digitalizzazione dell'erbario centrale italiano di Firenze e di altre collezioni naturalistiche italiane. 4 milioni e 200 mila reperti saranno scansionati e messi a disposizione di ricercatori e cittadini di tutto il mondo. È un progetto dello SPOC 7, a cui abbiamo già accennato nel primo video di questa serie, in collaborazione con gli altri SPOC del Centro Nazionale Biodiversità. La responsabile scientifica di questo lavoro è la professoressa Elena Canadelli dell'Università di Padova, la nostra ospite di oggi. Ciao Elena. Ciao Chiara. Allora Elena, oggi Picaia gioca in casa. Allora, noi infatti ci conosciamo bene e tu fai parte della nostra redazione scientifica, sei stata intervistata da una nostra autrice solo qualche mese fa. Ma come per tutti i nostri ospiti, vogliamo chiederti di raccontare un po' il tuo percorso che ti ha portato fino a questo progetto con il National Biodiversity Future Center. Raccontaci un po' di te, del tuo background. Io sono una storica della scienza, vengo dalla filosofia, ma mi sono sempre interessata agli aspetti visuali e materiali materiali della scienza e quindi anche delle collezioni naturalistiche, in particolare la storia dei musei, la storia naturale, la storia degli orti botanici, la storia degli erbari. Quindi parto da questo forte interesse anche nei confronti delle comunità dei naturalisti del passato e mi sono poi trovata a collaborare in molte occasioni con biologi, zoologi, botanici su vari progetti. Per esempio, un anno fa è stato inaugurato qua a Padova all'Orto Botanico il Museo Botanico, che invito tutte a visitare, che è un museo di taglio di storia della botanica e della medicina. E quindi ho avuto anche delle esperienze di creazione di contenuti con mostre, con musei. Il lavoro sulle collezioni è molto importante anche per quello che riguarda non solo la storia, ma anche l'integrazione delle varie fonti, per esempio allora i libri, gli archivi, le immagini, le illustrazioni e le collezioni museali. E da qui, diciamo, da tutta questa esperienza accumulata ormai, anche se non mi sembra vero, da in 20 anni, è arrivata anche questa importante occasione di collaborazione con lo SPOC 7, con NBFC, su questa linea 7 che è dedicata appunto alla digitalizzazione delle collezioni naturalistiche italiane. L'erbario centrale italiano è uno dei più importanti al mondo. È un vero e proprio archivio della biodiversità vegetale che ospita nelle sue collezioni oltre 2 milioni di campioni provenienti da tutto il mondo. Elena, spiegaci un po' quali materiali contiene questa immensa biblioteca della vita e come si fa a realizzare una copia digitale, per così dire. Sì, l'erbario centrale italiano dell'Università di Firenze è uno degli erbari più importanti in Europa ed è stato fondato nel 1842, quindi è un erbario aperto, non è una collezione quindi storica chiusa, ma è un erbario che continua ad arricchirsi. È un erbario, come tutti gli erbari, a partire dalla fine del Settecento, che si caratterizza con una serie di fogli con delle piante essiccate e delle informazioni che accompagnano la pianta, quindi per esempio il luogo di raccolta, la data, il raccoglitore, osservazioni, il nome scientifico che cambia nel tempo. Il fatto che siano dei fogli singoli agevola la digitalizzazione massiva, che è quella che si sta facendo proprio a Firenze, cioè il passaggio su dei rulli. Ci sono due rulli con due squadre che si occupano di applicare il foglio in questo rullo, viene fatto uno scatto e poi c'è una prima analisi, diciamo, dell'immagine sul posto, ma poi c'è una lavorazione anche, diciamo, non sul momento, ma che è legata all'estrapolazione di alcune informazioni, dati di biodiversità, che viene fatta appunto in parallelo e in un altro contesto. Quindi tecnicamente proprio questo apparire dell'erbario come foglio singolo che può essere passato su un rullo agevola una digitalizzazione massiva, veloce. L'immagine poi appunto deve essere però decifrata nella sua informazione, esattamente come il campione fisico. Elena, raccontaci qualcosa della praticità della digitalizzazione, di questi scanner, queste macchine che immagino avrete dovuto portare a Firenze per portare avanti il progetto. Qualcosa sull'infrastruttura e come vi siete organizzati. Il progetto di digitalizzazione massiva che diciamo è stata una gara europea di 7 milioni di euro, che è stata bandita dall'Università di Padova e che è stata vinta da un'azienda leader internazionale del settore che ha digitalizzato in importanti erbari e collezioni naturalistiche in giro per il mondo, che quindi ha portato i macchinari, l'expertise, i macchinari e anche formato il personale addetto alla digitalizzazione, che ovviamente è coordinato in armonia e lavora con il gruppo dei botanici dell'erbario centrale italiano di Firenze e anche ovviamente lo staff di Padova. Quindi per il grosso progetto sull'erbario si è scelta questa strada, proprio perché fino a questo momento in Italia non si era mai tentata una cosa di questo genere. Però nelle singole realtà, università e non solo, che partecipano a SPOC 7 e che sono nella linea 7 della digitalizzazione, c'è stato un incremento anche di singole digitalizzazioni collezioni, di singole collezioni, e quindi di acquisto di propri macchinari che poi rimarranno a disposizione dell'istituzione stessa. Però nel caso di Firenze, per la quantità e l'impatto del lavoro, si è perseguita questa strada. La sfida della digitalizzazione però non è solo una sfida tecnologica. Come già dicevi, non basta scansionare il campione senza danneggiarlo e ottenere un'immagine ad alta definizione. Serve anche che a quell'immagine siano associate tutte le informazioni, come dicevi, che abbiamo su quell'oggetto, cioè la sua storia. Raccontaci un po' di questo elemento del lavoro, quindi i metadati associati alle immagini. Sì, tra l'altro, appunto, come accennavo prima, i metadati sono fondamentali per dare un contesto sia scientifico ovviamente, ma anche storico, di comprensione del campione raccolto. Senza, facciamo fatica a estrapolare le informazioni che rimangono di tipo fisico-materico legato proprio alla pianta essiccata, quindi per esempio con analisi genetiche. L'estrapolazione dei metadati può essere fatta sia manualmente, quindi trascrivendo questi dati di biodiversità, ma anche, per esempio, e tenteremo di farlo proprio nell'ambito di NBFC e dello SPOC7, in collaborazione con vari partner, con l'intelligenza artificiale. Questo è fondamentale e apre delle prospettive molto interessanti, soprattutto perché i dati saranno open access e quindi saranno condivisibili anche in banche dati, non solo nazionali, non solo la piattaforma di NBFC, ma anche internazionali. Quindi si può scegliere una vasta gamma di dati che si possono inserire. Ovviamente ci sono quelli necessari che citavo anche prima, cioè il nome scientifico, la data, il luogo e il nome del raccoglitore, ma poi spesso sul foglio d'erbario troviamo tantissime altre informazioni ed è per questo che secondo me è uno degli aspetti più interessanti di queste ricerche proprio di frontiera, al di là dei big data e dell'intelligenza artificiale, di questa sfida tecnologica, è anche una sfida di saperi che si incrociano, quindi dello storico, degli storici, dei botanici, dei genetisti, degli ecologi, che in qualche modo si mettono insieme per interpretare questa fonte che in collezioni così importanti come quelle di Firenze sono fonti storiche, ma dicevo non solo, perché l'erbario è aperto. Nell'erbario, pensando alle cose che contiene, ci sono dei campioni o dei pezzi di collezione tuoi preferiti, particolarmente significativi, di qualche viaggio, per esempio? Sì, ci sono tanti, i fogli d'erbario sono legati proprio ai viaggi, offrono proprio un campionario del mondo e nel caso di Firenze ci sono per esempio alcuni campioni raccolti dal giovane Darwin durante il suo viaggio sul Beagle negli anni 30 dell'Ottocento alle isole di Capoverde, che in qualche modo, diciamo, con percorsi arrivano a Firenze. Non sono proprio specificatamente dell'erbario centrale italiano, ma sempre collezioni conservate al Museo di Storia Naturale di Firenze. Ci sono per esempio le palme di un grande e importante esploratore italiano e botanico come Edoardo Beccari, tutta la parte quindi insomma dell'Indonesia, della Malesia, viaggi di fine Ottocento, una collezione unica. E poi c'è un ricco erbario che è quello di un botanico dell'Ottocento come Webb, che contiene veramente tantissimi campioni di viaggiatori e botanici del suo tempo, della metà dell'Ottocento. Quindi sono storie legate proprio non solo alle piante, alle esplorazioni, ma anche alle persone. Facciamo un esempio, abbiamo anche dei fogli raccolti da Commerson, che era il botanico che accompagnò De Bougainville nella sua circonnavigazione del globo a metà del Settecento, e noi sappiamo in quella spedizione c'era anche la compagna in incognito Jean Barret di Commerson, travestita da uomo, e sappiamo che lui aveva difficoltà anche di mobilità a raccogliere, quindi sappiamo che probabilmente fu lei a raccogliere quegli esemplari, anche se nel foglio d'erbario ufficiale, perché comunque sono appunto fogli istituzionali in qualche modo, di raccolte istituzionali, c'è la firma di Commerson. Quindi spesso ci possiamo trovare informazioni legate agli ecosistemi, legate alle scienze naturali, ma anche a voci anche invisibili o comunque a storie di persone del passato. C'è tanta storia e tante storie fra queste pagine ancora da scoprire. Molti paesi stanno digitalizzando il loro patrimonio culturale, incluse le collezioni naturalistiche. Rispetto alla missione del National Biodiversity Future Center, quali obiettivi si vogliono raggiungere con questo progetto che tu stai coordinando? Cioè, cosa cambierà per i ricercatori e anche per i cittadini una volta che la digitalizzazione è completa e tutto sarà a portata di click? Allora, con questo progetto l'Italia entra in questo scenario internazionale della digitalizzazione massiva. Ovviamente in Italia le singole istituzioni, musei, erbari fino a questo momento hanno autonomamente digitalizzato alcune proprie collezioni. L'importanza di questo progetto è che è massivo e che tende a coagulare le forze. Io vorrei dire che è un inizio di un processo, non la fine, è l'inizio di un processo di coordinamento, di collaborazione tra le complesse galassie dei musei e degli erbari italiani, e quindi prima cosa consente di portare alla luce questo importante patrimonio che noi abbiamo e di condividerlo appunto sia con la comunità scientifica sia anche con il cittadino, con il non addetto ai lavori che, trovando questi approfondimenti di diversa natura online e trovando il dato, potrà anche ripercorrere una propria strada all'interno di queste collezioni. Quindi è l'inizio di un processo di lavoro insieme, di traino, diciamo, di una comunità che non è importante solo per la digitalizzazione per sé. La digitalizzazione porta con sé una visibilità delle collezioni, una condivisione del dato che entra anche nei repository internazionali e non solo nazionali, e anche una maggiore conoscenza delle collezioni che abbiamo, che ancora in molti casi giacciono dimenticate. Chissà cosa ci sono in quegli armadi, tipi, specie che sono cambiate. Quindi è veramente un viaggio di scoperta. La digitalizzazione ti consente di condividere questa conoscenza e di innescare un processo di maggior valorizzazione delle collezioni, quindi va vista in quest'ottica e, ripeto, in un'ottica di inizio di un processo di lavoro insieme tra diverse realtà e di messa insieme delle forze di condivisione del dato. Questo è lo spirito perlomeno con cui io ho approcciato questo compito. Su Picai abbiamo parlato molte volte delle collezioni naturalistiche, di quanto siano importanti, digitali o meno che siano. Tuttavia non tutte sono valorizzate e spesso nei musei italiani, però è anche un problema in altre parti del mondo, mancano le risorse o le competenze per farlo. La digitalizzazione, secondo te, potrebbe aiutare anche a risvegliare questo interesse per le biblioteche della vita, per gli erbari, eccetera? Sì, io credo di sì. Credo che appunto vada vista così la digitalizzazione, come un'occasione di rinnovata attenzione, di nuovo approccio alle collezioni, senza, diciamo, un fanatismo di tecnologia per sé. Ci consentono di animare questi spazi veramente affascinanti che spesso si accompagnano non solo alle collezioni museali, ma anche agli archivi, alle biblioteche, e che veramente ci possono dare molte informazioni sia nel campo della ricerca che nel campo della valorizzazione. E questo, diciamo, è un dato importante, perché non sempre, per esempio, la ricerca scientifica va insieme alla valorizzazione. Con il lavoro sulle collezioni museali invece noi possiamo fare questo insieme, ed è veramente una grande ricchezza, perché puoi tenere insieme storia, cultura, natura, scienza, e quindi puoi anche cambiare un po' la narrazione della divulgazione scientifica, oltre a mettere a disposizione dei dati, dei record storici sulla biodiversità del passato che altrimenti non avremmo in altro modo. E diciamo che come NBFC, ma in generale, si spera che possano entrare forze giovani in queste realtà, nei musei di storia naturale, nei musei botanici, negli erbari, negli orti botanici, perché abbiamo bisogno di nuove forze di museologia, di un approccio di collaborazione che è molto importante in un paese come l'Italia, che ha veramente delle collezioni importantissime, ma che spesso sono di natura istituzionale, giuridica diversa. Abbiamo i musei civici, quelli quelli universitari, quelli regionali, quindi lavorare insieme per la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione ovviamente di queste collezioni è un obiettivo molto importante che bisogna perseguire. Io credo che questa attività possa dare una mano, per esempio c'è anche una collaborazione a livello di linea 7 con l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, l'AMS, per una mappatura delle collezioni. Queste sono tutte azioni di stimolazione, di sinergia, che usano la digitalizzazione, ma la digitalizzazione non è fine a se stessa. Ovviamente più le persone conoscono questo patrimonio, più ci saranno investimenti, più diciamo entreranno nuove forze in queste realtà e quindi si entrerà, io credo, in un sistema virtuoso. Ripeto, credo che sia l'inizio di un processo, comunque un processo e non la fine questa attività. Grazie a Elena Canadelli, è professore associato e storica della scienza all'Università di Padova e responsabile scientifica di questo progetto di digitalizzazione portato avanti dallo SPOC 7 del Centro Nazionale della Biodiversità. Personalmente non vedo l'ora di esplorare virtualmente l'erbario centrale, non sono sicura anche tutti. Remember looking at the hour, picking up the phone, dialing your number, cause you weren't home. Now it's so different, now I'm so grown, no longer bitter, and I moved on. Tears were in my eyes, taking in your life, heart on my sleeve, they turn to night. But I'm grown, goodbye for long, long, long, long. Eccomi di nuovo in voce, torno qua, eccomi qua per l'ultima parte di puntata di oggi. Come avete sentito dal video, ecco, non è un'attività, diciamo, un progetto né semplice né piccolo, assolutamente quello che stanno portando avanti di appunto digitalizzazione degli erbari. ci diciamo rimarremo aggiornate come nervature, perché ancora vi dicevo, questo ecco era un video del 2000, di autunno 2024, quello che avete sentito, il podcast che avete sentito. Quindi nel frattempo dovrebbe essere terminata la digitalizzazione dell'erbario centrale italiano a Firenze, però ancora non sono disponibili, diciamo, consultabili, ecco, i campioni online. Si vede che forse, non so, se hanno fatto un pochino di ritardo, può essere, o se, perché era preventivata di finire ad agosto 2025, quindi forse devono ancora ultimare un po' di cose. Non ci offendiamo assolutamente per questo, rimarremo anzi aggiornate, vediamo se quando uscirà. Nel frattempo però c'è un'altra cosa che invece è esplorabile, che è più per divertimento che altro, vi dico la verità, ma così perché non divertirsi insieme anche qui su Nervature. Praticamente l'erbario centrale italiano, appunto questo qui di Firenze, cioè che si trova a Firenze, ha creato una piattaforma online in cui si può esplorare proprio fisicamente, diciamo, visivamente le stanze dell'erbario centrale. Quindi sono 2-3 stanze, almeno queste qui, rese disponibili dal portale. È bellino perché uno ci si gira un po' attorno, vede un po' di cose, è simpatico. Se lo volete guardare nel frattempo che io ve lo racconto, visto che ve lo posso solo raccontare a voce, potete andare, vi ho messo il link sul pad, quindi il nostro pad che usiamo sempre per chiacchierare con voi in diretta e non, lo raggiungete tramite il link diretta@wombat.vado.li, o se no, se siete sul sito radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming trovate il link lo stesso. Quindi vi ho messo sul pad i link per entrare in questo portale, si chiama Odo, e Odo, cioè, c'era una ragione per cui si chiamava così, ora non riesco però a ritrovarla, viene dal greco, boh, non so più che. Comunque, è carino, appunto vi dicevo, voi potete un po' muovere all'interno delle stanze dell'erbario e, attenzione, addirittura vi metto un po' di sottofondo che è proprio la musichina che loro forniscono così per farvi compagnia durante questa esplorazione. Quindi la cosa carina è che oltre a, vabbè, vedere com'è fatta la stanza e vabbè, potete cliccare su una serie di cose e vi fa, diciamo, degli approfondimenti riguardo a come sono i fascicoli che comprendono i fogli dell'erbario, riguardo a qualche pianta nello specifico. Per esempio, ecco, ora ho appena aperto la scheda del mirtillo palustre Vaccinium oxycoccus, che per esempio qua ci spiega che era una pianta presente in Toscana, in particolare nell'area che appunto era palustre tra Lucca e Pisa, che poi però con le bonifiche di fine Ottocento, siccome appunto non era è diventata non più area palustre, chiaramente questa specie non è più presente nell'area, quindi c'è stata una locale estinzione, solo locale, è ancora in viva come pianta nel nostro globo. Quindi insomma vi dà queste informazioni, vi dà la foto, è carino, ecco, c'è un po' di cosine, poi vi potete muovere, potete vedere una serie di appunto altre cosine su cui cliccare. E oltre a questo invece è interessante perché dà una serie di altre informazioni nella pagina, nel bottone in alto c'è scritto scopri, in alto a destra, se cliccate lì vi dà una colonnina con una serie di altre cose cliccabili, e la prima ve la vorrei un attimino così leggere a voce, è molto carina, si chiama Dal campo all'erbario ed è un approfondimento di come creare un proprio erbario, o comunque in generale come vengono creati, ecco, questi erbari, anche quelli diciamo istituzionali. E quindi, ecco, ve lo spiego un po'. Per esempio dice È un viaggio di cura che si sviluppa in più fasi, facendo confluire tanti piccoli tasselli materiali in un solo grande archivio di conoscenze. E quindi come funziona? Si parte ovviamente, vi potete immaginare, dalla raccolta della pianta in questione, dal processo di essiccazione, poi dalla disinfezione, poi il montaggio, identificazione e archiviazione. Quindi, andando più nello specifico, per quanto riguarda la raccolta, qui specifica giustamente una serie di cose che potrebbero a volte sembrare scontate, ma mai troppo. E quindi dice, per esempio, le piante non vanno strappate, ma raccolte con cura e criterio, ce la faccio. Giustamente dice una cosa importante: ogni parte di pianta che vogliamo usare come campione non può essere più grande della pagina di foglio che andremo a usare, perché sennò sbuzza fuori e non c'entra, ovviamente. Da delle misure standard, chiaramente il campione più utile è quello completo, quindi che comprende tutte le fasi della pianta e tutte le parti della pianta, quindi foglie, fiori, frutti. I fiori e frutti ovviamente di solito non sono nello stesso periodo dell'anno sulla pianta, per cui magari sarà necessario tornare più volte a raccoglierli. Oppure anche integrare con dei disegni, questo non lo dice, ve lo dico io, ma insomma. E quindi ecco, la raccolta non è così banale, spesso e volentieri è anche utile mettere le radici, perché non tutte le radici sono uguali, vari tipi di apparati radicali, fittonanti, fascicolati, eccetera, eccetera. Passando invece all'essiccazione, che cosa ci dice? Ci dice ogni campione va messo su un foglio di giornale. Si compone un pacco avendo cura di applicare etichette con le informazioni sulla raccolta. Si avrà poi cura di chiudere il pacco con tavolette di legno o cartoni o e cinghie di cotone. È necessario premere sul pacco in modo che le piante restino distese e inizi la loro disidratazione. Dopo 24 ore tutti i giornali devono essere sostituiti con altri asciutti per evitare così che si formino muffe. In cambio della carta, della carta proseguirà nei giorni successivi ad intervalli sempre più diradati. Di solito ci vuole tra i 10 e i 40 giorni dalla raccolta per un'essiccazione completa. E ad ogni cambio di carta è possibile modificare a disposizione dei campioni e delle parti, quindi magari una foglia si è arricciata o non vi eravate accorti che si era spostata, o a questo punto che è più secca siete in grado di mettere in un'altra posizione rispetto a prima, quindi ve le sistemate tutte per benino. Ecco, suggerisce per esempio anche di guardare sia il fronte che il retro delle foglie o comunque delle parti di pianta, perché magari dal dietro si arriva a capire delle caratteristiche specifiche della pianta e quindi è utile vedere entrambi i lati della foglia, per esempio. E poi ci c'è, ecco, curiosità: talvolta i campioni possono perdere facilmente le foglie e o i fiori durante l'essiccazione. Per esempio nel caso delle conifere succede spesso, anche delle eriche. In questi casi si può usare un fissativo come la vernice di coppale. In questo caso però va scritto sull'etichetta del campione che l'abbiamo usata, così nel caso di successive, diciamo, analisi è una cosa che viene fuori. Oppure si può arrestare col calore il processo di abscissione fogliare, appunto quello che ovviamente quello che porta alla caduta delle foglie. Ecco, vabbè, mi sta di nuovo dando problemi questo simpatico computer, speriamo non ci abbandoni. Ecco un esempio: per interrompere questo processo di abscissione fogliare si può lessare la pianta prima di seccarla. Ecco, infatti, ora non risponde più a nessun tipo di, mannaggia lui, di click. Proviamo, scusate, mi tocca chiudere e riaprire. E vabbè, a questo punto mi sembra sensato rimettervi un pochino di musica. Vediamo che cosa vi propongo. Eccoci qui. Thank you. Been a killer, where you back from? All the ends you are dread from. Gunshot make you feel like the bridge over London. But see, put in my crown down. This me out to east, I'm gonna fuck you over Boston. Head a bus like Gaspan. She came with gunpowder. No lost gun, no lost man. No lost gun, no lost man. Careful with La Mala, you're gonna lose your head. I make promises, never make threats. Don't care, it's still finalistic, are you in these days? Tengo de la isla's birth from the best. You thought you had me good, but I had you from the beginning. Mal portadita, flammable in it. If you stay real, but you never ever read it. I play the villain, nightmares spread it. No quiero ir al bathroom, all the ends you are dread from. Gunshot make you fall like the bridge over. Ma ci siamo, non vi stavo abbandonando, eccomi che ritorno. Il computer si è ripreso con una inaspettata velocità e quindi ecco, giusto perché non mi rimane tantissimo tempo, volevo ecco andare avanti. Quindi abbiamo visto la raccolta, l'essiccazione, dopo di questo una fase sempre anche se importante è quella della disinfestazione. E quindi dice che una volta che il campione è secco vanno eliminati eventuali insetti che potrebbero distruggerlo di lì a poco. Il metodo migliore consiste nel tenerlo in congelatore, quindi a meno 28 gradi. Sperate di non essere nella stessa stanza nel frattempo. Comunque tutto ciò per 10-15 giorni. Per evitare poi sorprese, i campioni vanno comunque conservati in un ambiente fresco. Per piccoli erbari possono bastare repellenti come la canfora o ancora meglio naturali come il timolo. Per i medi o grandi però chiaramente questo sarebbe più complesso e quindi il metodo giusto è di tenerli a delle temperature appunto fresche verso i 18 gradi. Oggi fortunatamente non è più possibile utilizzare, come veniva fatto in passato, ho pensato un po' a materiali velenosi o infiammabili, pericolosi sia per i campioni che per il personale che poi li doveva maneggiare ovviamente. Poi ecco la fase successiva è quella del montaggio e appunto sì, vanno messi su un cartoncino, vanno fissati e si possono fissare con delle striscioline di carta adesive oppure con dei spilli, quindi fissati proprio bucati al foglio. Cioè, non bucato il campione, scusate, bucato il foglio con il campione nel mezzo incastrato. E chiaramente dice di, in basso a destra del foglio, lasciare uno spazio nel quale applicare l'etichetta, sul quale trascrivere tutti i dati segnati in fase di raccolta, che vabbè, l'abbiamo già detti più volte in questa puntata, non li starei a ripetere. Ecco, a questo punto arriva la fase dell'identificazione. Una raccolta di piante ha un valore in sé per l'associazione permanente del reperto naturale con l'etichetta che ne riporta i dati di raccolta. Essa però assume il suo significato scientifico solo quando ciascun reperto viene identificato. Per farlo può essere necessario annotarne anche caratteristiche quando è ancora fresco, ma in genere i saggi d'erbario parlano ai botanici anche molti anni dopo la preparazione, ovviamente, se no non verrebbero fatti. Questa è decisamente una buona notizia, non limita troppo il tempo della raccolta di altri campioni e soprattutto dà un senso all'erbario come luogo di conservazione fisico dei campioni. I campioni d'erbario spesso vengono studiati con una buona lente o un piccolo microscopio stereoscopico e maneggiati con un paio di pinzette per francobolli così da evitare di romperli. Se è necessario esaminare i particolari di un organo, fiore, frutto, seme o altro, lo si può immergere, sentite qua interessante, si può immergere in acqua bollente per reidratarlo e facilitarne la manipolazione. Per l'identificazione è spesso necessaria la consultazione di test idonei, chiave analitiche, dicotomiche per esempio o altro. Una volta identificato si trascrive il nome sull'etichetta, insieme all'autore, la data di identificazione e anche altro volendo. In questo modo, nel corso del tempo, ogni singolo foglio erbario può diventare esso stesso un piccolo archivio. Quindi ecco, anche qui non sto troppo a leggere se non ci ripetiamo. E poi, ultimissima fase, l'archiviazione. Vi potete immaginare che nel caso di erbari grandi è più che mai utile. E quindi quello che ci dice è, una volta identificato il campione, questo viene archiviato nell'erbario in modo che possa essere facilmente reperito quando necessario. I criteri di archiviazione fisica del campione possono essere diversi, ma comunque esso viene sempre collocato secondo il nome della specie all'interno. Oddio, scusate, non riesco a scorrere. Ecco, all'interno del genere e della famiglia di appartenenza. Ulteriori affinamenti dell'archiviazione possono riguardare la suddivisione geografica dei campioni di una stessa specie a seconda della provenienza e della raccolta. Fondamentale è l'archiviazione dei dati inerenti ai campioni, oggi sempre più informatizzata e spesso resa disponibile agli utenti esterni, come abbiamo ampiamente detto. Quindi, appunto, tramite il pad diretta a wombat.vado.li ci potete entrare in questo portale, è molto simpatico e divertente, c'è anche una serie di altre informazioni, non mi starei troppo a dilungare, anche perché senza averle proprio davanti visivamente si fa un po' fatica. Che dire, quindi sono riuscita a dirvi tutto quello che volevo, che bello, non mi succede spesso. ecco, un'ultima cosa invece che vi volevo dire era che tramite tra l'altro sempre questo portale si può accedere anche a un altro portale che è di una mostra che venne fatta, oddio ora non mi ricordo quanti anni fa, insomma qualche anno fa, perdonate, ora non c'ho la pagina sotto mano e non me lo ricordo. Comunque una mostra che si chiamava Natura Collecta, Natura Exhibita, che venne fatta a San Lorenzo e io mi ricordo tempo fa appunto andai a vederla, era molto bella, molto molto interessante, fatta molto bene, c'era dedicato tanto spazio, quindi insomma veramente degna di nota. E tra le mille informazioni, ecco, era una mostra organizzata anche dalla Specola, quindi tutti i materiali riguardanti sia fauna sia flora, però ecco, provenienti anche da lì. E veramente molto ben fatta, chiaramente c'era anche l'argomento degli erbali. E la cosa che vi volevo dire è che c'è un portale per esplorare la mostra che è ancora esplorabile. Quindi nel caso ve la foste persa, non è ovviamente la stessa cosa che andare al museo e tutto, ovviamente, però ecco, per avere un'idea questo pure può essere fatto. Vi metto il link anche di questo sul pad, così che se siete curiose ce l'avete. Ve li metterò entrambi ovviamente anche sulla pagina del podcast di questa puntata, quando la caricherò. E quindi ecco, ce li avete entrambi. Sì, ecco appunto, era interessante. Poi in molte teche della mostra potete... non è facilissimo navigarci però, va un attimo studiato. Comunque, ecco, potete leggere tutti i foglietti descrittivi, potete fare gli zoom sui campioni conservati dentro le teche, eccetera, eccetera. È carina, interessante. Che dire, quindi, oggi sì, è stata un po' una prima introduzione dell'argomentone, diciamo, dell'archeobotanica in generale, molto alla larga. E così, giusto per mettervi curiosità, mi viene da dire in chiusura proprio che gli erbari non sono l'unico modo per studiare la flora dei decenni o secoli o millenni passati. Ci sono altri modi che le piante molto gentilmente ci offrono per studiarle e studiarle anche in tempi appunto molto remoti. E, ripeto, giusto per mettervi curiosità, c'è per esempio la dendrologia. Così, ve la butto lì, non vi sto di niente. Se sapete che cos'è, bravi. Se non lo sapete, forse vi viene voglia di andare a vedere. E, no, a parte scherzi, non entro ovviamente nel merito, perché è un argomentone enorme e chissà, magari sarà argomento di qualche prossima futura puntata. Ecco, prima che mi scordi di questa cosa importante, sentiamo un'ultimissima cosa prima della canzone di chiusura. Sei curioso di conoscere il wombat più da vicino? Vorresti per esempio sapere di che piante si ciba questo paffuto marsupiale? Vieni a chiederlo a Nervature, la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante e che il 2 febbraio al Centro Sociale Next Emerson festeggerà la sua 100ª puntata. dalle 19 diretta a microfoni aperti, a seguire Cena Popolare, Banchino della Radio e DJ Set Arrangia Meccanica. Passa a fare un saluto e magari a raccontarmi la tua pianta storia. L'amore, il tempo passato con te, l'ho amato tutto. L'amore, fai passare le tue, l'amore, fai passare l'amore, l'amore passato con te. Ed ecco, questo era l'ultimo invito che vi posso fare in diretta, che vi posso fare da questi microfoni in live per appunto la centesima puntata la settimana prossima, quindi il lunedì prossimo sarà il 2 febbraio, centro sociale Next Emerson a Firenze Castello, via di Bellagio, non so più quale numero. Passate, mi raccomando, passate così che ci possiamo conoscere, ci possiamo confrontare, non solo con me ovviamente, con tutte le altre della radio, e magari appunto, come diceva lo spottino, avete voglia di raccontarmi una vostra pianta storia, quindi una storia della vostra vita personale che riguarda una pianta, che bello, sarebbe bellissimo. Quindi vi aspetto lunedì prossimo appunto dalle 19 in poi, come sempre a Nervature, ma stavolta a microfoni aperti. Io vi mando un'ultima canzone di saluto e quindi a sentirci, e anzi speriamo a vederci settimana prossima. Ciao ciao! From the streets of Jamaica, coming live and direct. Proud to diggy day, and we no need no mic check. Stepping at the place, no bad that disrespect. Thus, I want to get the youths about the choice. For them, I make boom. Lordy, Lordy, now join no party. Look what the politician them do to Claudy. Look what the politician them do to Jim. Him son resurrect it, and look what them do to him. Cause they will use and dispose of you, those who are close to you. If you choose to tread the road, you know. So brother, brother, if you are tonight, carry the scars of a coffee. I carry the fire of a Melchizedek. When your mind get a chance, represent. Cause you might have no past, present. So, not take them last of your past, then resent. So, one make it fast, so them last every cent too. So we go back to the ancient ways, untold secrets that remained unchanged. Mentally get unchained. I want goal, I want aim, and the same what you're saying. Got to stay true to the things you know are right. Nothing worth the gain you attain by sudden flight. Rather keep your goals in sight. True, true. Even in the darkest night. Yeah. Have faith in the Father, the one who shines your light. Probably speak me now. Mercy me them corrupt and covetous, sneak up from me, I day and me near one thing that he has say. The intellect a play up on the poor poverty. Nobody now dance to a two party. Oppression, brainwashing and nefarious schemes to keep the have-nots where they think they ought to be. I man, your promises are better when the poll time grows. Then I back to the same after we not announce. Rocks down a river bottom, never announce a sun at. So many of me brother them trapping at the blind. Black full of shot, but no few. In a bad boy, boy, boy, walk in a liberty diet. I and I, Allah, straight up. Wake up, sons of Jacob. Lay down their arms, real tools if they take up. Stay up, wake up, sons of Jacob. Time to show the cowards what we made of. Got to stay true to the things you know, alright. Yo, Ratty. A long time I've got a crush on Ratty, alright.